Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sono 6 anni e 7 mesi che mi sveglio alle 5:15. Scusi, ma se siamo così inaffidabili, ma perché non ci lasciano andare? Si dice Benetton. Io vi ho conosciuto quest'autunno quando, cambiando casa, mi sono ritrovato a far colazione in una cucina senza televisione e ho iniziato ad ascoltare voi. Complimenti, bella trasmissione. Il problema è adesso voi che andate in ferie, che cosa andate a fare? Quale trasmissione viene dopo di voi? Dai, buone vacanze, ci vediamo a settembre. Ci sentiamo a settembre, ci sentiamo. Oppure, se ci volete vedere, siamo anche in diretta su Facebook. Naturalmente si dice Benetton. Sì. E vabbè, e poi abbiamo anche l'ascoltatore favorevole all'Italexit, come avete sentito, che dice: se ci ritengono inaffidabili, Olanda, i cosiddetti frugali, ci lasciano andare. Perché? Perché non ci lasciano andare? Oh, infine l'ascoltatore che si sveglia da 6 anni e passa alle 5:15. Perché prima stavo dicendo che, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, che la settimana prossima è l'ultima settimana per questa stagione, ovviamente, di 24 mattino, poi ci ritroviamo il 31 agosto. E parlavo di questi 11 mesi di sveglia alle 4. E giustamente l'ascoltatore rimarca: amico mio, io, per dirla alla Cruciani, amico mio, io mi sveglio alle 5:15 da 6 anni e mezzo. I miei complimenti, il recordman resta il nostro Alessandro Milan, che 7 anni si è fatto in questo modo, quindi ancora ne manca, ancora ne manca. Dai che ci siamo, 7:21 di venerdì 17 luglio, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre con l'apertura verso le vostre opinioni, i vostri commenti, i vostri messaggi, 349-238-6666 per gli WhatsApp audio, o anche quelli scritti, o anche gli SMS. Dunque, giornali che si dividono grosso modo in due. Alcuni aprono dedicando il titolo principale allo scontro tra Italia e Olanda e dunque al Consiglio europeo che si apre oggi, che si apre questa mattina alle 10, il primo dal vivo dopo tanti in videoconferenza, e altri che aprono sul tema Covid e arrivi dall'estero, taluni che lo legano alla questione immigrazione. Immigrazione che ritroviamo su un altro fronte, ossia il rifinanziamento della missione in Libia. Questo, grosso modo, queste le aperture dei giornali. E dunque, se il Corriere della Sera apre sul duro scontro tra Italia e Olanda e La Stampa sulle parole di Conte che dice i 750 miliardi del Recovery Fund non si toccano, e La Repubblica, in maniera più neutra, parla di un caso, ma nemmeno troppo neutra, parla di un caso Italia che divide l'Unione Europea, il Quotidiano Nazionale e il Messaggero scelgono invece gli arrivi dall'estero. 3 contagiati su 10 dall'estero, ci dice il Quotidiano Nazionale, parla Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità. Il Messaggero ci informa che il governo invece sta studiando un piano per il controllo negli aeroporti, tamponi per i voli dall'estero. La mettono sul fronte dei migranti invece La Verità e Il Giornale. L'Italia importa stranieri col virus, è il titolo della Verità. Immigrati infetti in fuga per l'Italia, è il titolo del Giornale. Mentre Il Manifesto e Avvenire si dedicano, come vi dicevo, agli accordi al rifinanziamento della missione in Libia, con il voto del Partito Democratico, e la polemica si concentra su questo. Omissione compiuta, il titolo del Manifesto. scandalo continuo è quello di Avvenire. Altre scelte le fanno per esempio il Sole 24 Ore, che ci informa che il decreto rilancio è legge, ma servono 155 decreti attuativi. 155! E il Fatto Quotidiano, che parla di 400.000 euro che vengono collegati dal Fatto Quotidiano alla Lega, perché ci sono tre personaggi legati, non strettissimamente, ma collegati al partito di Matteo Salvini. Il giallo ha a che fare con una plusvalenza della vendita di un palazzo a prezzo doppio alla Film Commission Lombardia. Libero, tutti in pensione più vecchi per mantenere chi non lavora, è questo il titolo di apertura. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso e però collegato in parte alle vicende di Covid. Non so se avete figli voi che hanno fatto la maturità e non so quest'anno come sia andata. Di certo la manica larga c'è stata, così come manica larga era praticamente obbligatoria per le promozioni alla classe successiva. Ebbene, manica larga c'è stata anche per gli esami di maturità. Boom di 100, ci informa a pagina 21 il Corriere della Sera con Gianna Fregonara e Orsola Riva, le quali raccontano che quasi la metà dei candidati ha preso più di 80. Uno su 10 ha preso 100 e nei licei è andata anche meglio. Al classico uno su 4 ha preso il massimo dei voti, allo scientifico poco meno, uno su 5. Non era mai successo, nonostante negli ultimi anni il rendimento fosse sensibilmente cresciuto. Non c'è da stupirsi, così inizia il pezzo, che alla ministra Lucia Azzolina siano arrivate in queste settimane decine di lettere per chiedere di mantenere anche in futuro l'esame light di quest'anno. E te credo con questi risultati. Naturalmente pesa il fatto che i professori, gli esaminatori fossero gli stessi professori dei ragazzi, non ci fosse la commissione esterna, salvo il presidente di commissione. I professori si sono fatti un selfie, scherza il capo del sindacato dei presidi di Roma, Mario Rusconi, perché sono stati proprio i docenti della classe a giudicare i loro alunni. I dati scomposti a livello regionale ci regalano in realtà il solito quadro che oggettivamente lascia un po' perplessi, no? Perché i voti più alti si concentrano al sud, dove la Puglia incassa il consueto record di lodi, 5,2%. La Calabria fa l'unplane di 100, sono il 13% degli studenti ha preso 100, ma anche gli studenti delle regioni del nord sono stati favoriti. E il punto qual è? Il punto è che in realtà gli esami, le prove invalsi non ci consegnano questa realtà di un'istruzione di così alto livello. Saranno anche stati bravi e resilienti i ragazzi del 2020, ma non si può evitare di porsi la domanda: questi voti restituiscono un'immagine fedele della scuola italiana? Le prove invalsi sono saltate a causa dell'emergenza, ma la fotografia scattata nel 2019, per quanto sgranata, raccontava tutta un'altra storia, quella di un paese che ogni anno licenzia da scuola troppi giovani dalle competenze fragilissime, soprattutto al sud, dove metà degli alunni non raggiunge la sufficienza nei test di italiano e matematica, e dove però, come vedete, c'è un boom di lodi e di 100 alla maturità. Un altro elemento, un altro mattone da mettere questo su quello che forse non ha funzionato, questo a livello generale che non funziona nella scuola, ma che non ha funzionato in particolare quest'anno. E questo, se consentite, mi porta a un libro al quale il Messaggero decide di dedicare una pagina, ed è pagina 11, in un pezzo firmato da Cristina Marconi, che prende il libro di un sociologo, Frank Furedi, professore emerito di sociologia alla Kent University. Il titolo è Why Borders Matter, perché i confini sono importanti, e apre un dibattito sulla questione dell'educazione permissiva. Che disgrazia l'educazione permissiva, e questo è il titolo. In Inghilterra il libro di un noto sociologo accusa un'intera generazione di genitori. Il mondo ha bisogno di confini, i bambini non hanno bisogno di limiti per crescere, per avere qualcosa da prendere a calci contro cui ribellarsi al momento di formare la loro personalità fin dai primi fondamentali anni di vita. Eppure le tendenze educative sembrano andare in una direzione pericolosamente diversa. Secondo Frank Furedi, sociologo canadese di origine ungherese e professore emerito all'Università del Kent, che nel suo ultimo libro parla del rischio già ben avviato che i genitori di oggi, già educati in un clima permissivo, vadano a creare nuove generazioni ancora più fragili di loro, troppo per confrontarsi con la diversità e uscire di casa sentendosi autonoma e sicura. Segnala Furedi che anche nella letteratura per l'infanzia c'è una forte tendenza a cancellare i limiti, a confondere i piani, puntando a lusingare i bambini invece di metterli davanti a ostacoli da superare con coraggio, dando loro modelli da seguire per affrontare la realtà. Oh, io non so se la tesi di Furedi sia corretta oppure no. Molti diranno che è solo che suona quasi come un sentito dire, no? Un'impressione, quello, un senso, un parole da senso comune, e però il dibattito su questo tema può essere interessante. Così come si può aprire un dibattito sul caso avvenuto a Ravenna, e siamo a pagina 15 della Verità, nel quale insolitamente Francesco Borgonovo, che è una penna molto dura su questi temi, interviene con una certa delicatezza. Ed è la vicenda di un ragazzino di 13 anni, Marco, che si sente donna e che vuole chiamarsi Greta, per il quale i genitori, o per la quale i genitori, hanno chiesto il cambio di nome all'anagrafe. È una vicenda sulla quale, ovviamente, per la delicatezza della situazione, per i 13 anni di questa persona, insomma, bisogna andarci con i piedi di piombo, e Francesco Borgonovo in questo caso lo fa. Greta da un anno a questa parte ha partecipato a vari programmi TV, ha rilasciato interviste assieme ad altri ragazzi trans, è stata protagonista di un lungo servizio su Vanity Fair. Sua mamma si chiama Cinzia Messina e gestisce la pagina Facebook Io sono Greta 13, tramite la quale sostiene le battaglie arcobaleno. Mesi fa i genitori di Greta hanno lanciato una petizione online per chiedere una nuova legge che prevedesse nelle scuole percorsi di formazione di contrasto al bullismo omo-transfobico obbligatori per la comunità educante, ma la novità è che, come riporta Il Resto del Carlino, si sono rivolte alla sezione civile del Tribunale di Ravenna per chiedere sia il cambio del nome del figlio che il nulla osta per l'intervento chirurgico dopo il compimento della maggiore età. Cinzia Messina, la madre, precisa che non si farà alcun intervento chirurgico prima della maggiore età e la decisione spetterà a lei. È prematuro pensare in questo momento a un'operazione così delicata. Con lei questo concetto è sempre stato sottinteso. Intanto però, in attesa che il giudice decida, una PM ha già espresso parere favorevole. Dunque, pur con tutto il rispetto per la situazione privata della famiglia, ci viene da sospettare che la strada per Greta, scrive Borgonovo, sia già segnata. Una pausa. Mattino. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Eccomi qui, eccomi. Allora, iniziamo direi dall'Europa, perché alle 10, tra poche ore, inizia il Consiglio europeo, il primo dal vivo dopo tanto tempo, ed è prevedibile che si accenda nuovamente lo scontro tra Olanda e Italia, del quale, per esempio, parla nel suo titolo di apertura il Corriere della Sera. Altro che prevedibile, lo scontro invece di diminuire è andato aumentando. Che cos'è il succo dello scontro? Il succo dello scontro è che l'Olanda, capofila dei paesi cosiddetti frugali, dice: va bene, diamo pure questi soldi in nome del Covid, però vogliamo vedere bene come vengono spesi, vogliamo un diritto anche di veto, un diritto di poter intervenire se vengono spesi malamente, tra l'altro, per quello che riguarda, e l'Italia è il paese capofila di quelli che questi soldi li devono ricevere e vogliono e dicono: no, noi li spendiamo come ci pare, non vogliamo diritti di intromissione, concedere l'intromissione, non vogliamo diritti di veto. Allora ieri Conte Tanto Paolo, tanto che se appunto il Corriere parla di un duro scontro tra Italia e Olanda, addirittura la Repubblica parla di un caso Italia che divide l'Unione Europea, dove bravo, ci siamo noi bravo, al centro. L'hai detto, la verità è questa, è che c'è un caso Italia che divide l'Unione Europea e che non c'è solo l'Olanda dall'altra parte. Ieri Conte, ti stavo dicendo, ho sentito un po' tutti i capi di governo di Ungheria, Finlandia, Repubblica Ceca, anche quello austriaco che è il più duro e più sprezzante nei confronti dell'Italia, non ha trovato un ragno dal buco, ma quello che lo ha impensierito è stata una dichiarazione di Christine Lagarde, questi giornali la mettono poco in evidenza, che ha detto testualmente che i fondi europei devono, virgolette, essere profondamente ancorati a solide politiche strutturali. Ora, queste solide politiche strutturali, è Christine Lagarde che parla, cioè è come se fosse Mario Draghi, la successora, si dice successore, non so, successore di Mario Draghi, e che dice, ma dove stanno queste solide politiche strutturali? Sì, l'unico giornale che lo mette in evidenza è il Sole 24 Ore, che a centropagina ha proprio un titolo su questo, dice che la BCE incalza sulle riforme. No, io non volevo essere troppo patriottico, adesso parleremo troppo del Sole 24 Ore, tantissimo, però è vero, non a caso hanno beccato, i colleghi del Sole 24 Ore hanno beccato l'elemento centrale della giornata di ieri, anche perché l'Italia approfitta di questa prospettiva, di questi denari per fare un'operazione Beneduce. Beneduce è il fondatore dell'IRI all'inizio degli anni 30, cioè di ripubblicizzazione di tutto. C'è uno splendido articolo di Dario Di Vico, pagina 6. Molto bello, molto bello. Dice: avanza lo Stato padrone, l'Italia facendo finta rottamando l'idea di un mercato aperto, dalle privatizzazioni si va a un tentativo di prendersi tutto, se vuoi dall'elenco le autostrade tornano alla proprietà dello Stato, il Monte dei Paschi di Siena, che non era mai stato pubblico, lo è diventato, il Mediocredito Centrale si è annesso al Popolare di Bari, l'Italia è ancora a carico di contribuenti e per l'Ilva si prospetta una dolorosa ripubblicizzazione. Insomma, noi stiamo rifacendo un po' alla stracciona, perché l'idea dell'IRI, anche se sotto il regime fascista, era molto più ambiziosa. Stiamo facendo una cosa, e chi ci dà le garanzie che sotto la guida dello Stato tutto questo babbassone funzionerà? Tu la puoi dare? No, assolutamente, ma figurati. Guarda, non la può dare nemmeno il vice segretario del Partito Democratico, che su questo si concentra, mi pare, no? In un'intervista sulla Stampa. Bravo, devo fare le lodi a Andrea Orlando, perché oggi c'è un'intervista di maniera, insomma, bella, importante, di Gualtieri, ovviamente, che deve sul Corriere della Sera, che deve mostrare ottimismo, mentre invece Andrea Orlando dice: Aspi non deve essere un'altra l'Italia, riforme o perdiamo i fondi della UE. Perché bravo? Perché almeno si rende conto del fatto che o si fanno le riforme, poi non è che si fanno in un giorno, ma si danno degli elementi chiari di queste riforme, la sburocratizzazione, oppure se sono chiacchiere in cambio di un centinaio e rotti di miliardi, insomma, non possiamo poi pretendere che l'Europa tutta, nonostante noi siamo appoggiati dalla Francia, la Merkel fa di tutto per tenerci a galla col solito schemino, guardate che però se ci fa un dispetto a noi salta l'Europa. Sì. Questo ricatto, io lo sto dicendo da tempo, non funziona, non può funzionare, perché non possiamo chiedere in nome di un'emergenza una barcata di soldi e poi darli a un sistema Italia che fece bruttissima prova di sé, tant'è che 15 anni fa decidemmo di procedere sulla via delle privatizzazioni come faceva tutto il mondo e continua a fare tutto il mondo. Quindi insomma, lascia a te, che sei più esperto di me. Ma figuriamoci. Però mi devi preparare un manifesto molto preciso e circostanziato su come funzionano queste pubblicizzazioni, perché sennò Sarà fatto. Nonostante sarà la fatto, stima sarà, che ti do, ecco. sarà fatto. Abbiamo ancora tempo prima del traffico per uno scampolo di politica, e questo scampolo di politica potrebbe essere, direi, la questione della Liguria, dove allo scontro andranno due giornalisti a questo punto, Ferruccio Sanza e Giovanni Toti. Ferruccio Sanza, che oggi scrive un pezzo sul Fatto Quotidiano per dare l'addio ai lettori e parlare di questa candidatura. Mi candido con ideali concreti per il centro-sinistra del futuro. Insomma, sì. Lui si candida alla guida della Liguria. Qui mi sembra che voglia dare indirizzi al resto della politica italiana. Sì. Bravo Ferruccio Sanza. I miei complimenti e i miei auguri. Però, caro Paolo, non ti sarà sfuggito il pezzo sul quotidiano La Repubblica, pagina 10, un retroscena di Annalisa Cuzzocrea e Giuliano Foschini, ma non sono i soli che lo scrivono, secondo i quali a Di Maio e allo stesso Grillo questa candidatura mica va giù tanto. Ma sì, anche perché hanno rispolverato tutti gli articoli che Sansa scrisse in precedenti occasioni, per dire che i 5 Stelle mancavano i loro patti, erano incoerenti, così, e dicono, ma con questo ci ha criticato, senza neanche ci chieda scusa, noi lo dobbiamo appoggiare. Ma poi in generale c'è un senso di fastidio, perché continua l'offensiva del PD di dire ai 5 Stelle votate per i nostri candidati, se no vince la destra, perché dicono tra le righe 5 Stelle, ma possibile mai che non ci sia un nostro candidato alla guida di nessuna regione? Ed è un po' così nelle Marche, anche in Puglia, dove si prova a dire Emiliano dice ma io sono più 5 Stelle, vabbè, però quando si fanno i patti si mettono sì. Anche persone dell'altro schieramento. Poi sì. In maggio c'è sempre De Luca, che è simpaticissimo, che però oggi ne ha fatta una delle sue, che si è messo a prendere di petto il segretario del suo partito, De Luca è il Presidente della Campania. Regione Campania, ricandidato, che ha detto delle parole un po' sgarbate su Zingaretti, dicendo che quello faceva i brindisi, si è preso il Covid, e poi durante la giornata li ha ritrattati, dicendo no, ma io voglio benissimo, voglio molto molto bene. A Zingaretti sì, ora bene, però quella frase quella frase alla fine l'ha detta. Allora c'è un altro scampolo di politica, o meglio di un altro tema che ha a che fare con una sede, con un luogo storico della politica della Prima Repubblica. Abbiamo parlato di Botteghe Oscure nei giorni scorsi, tra un attimo parliamo del Rafael dopo il traffico. A chi posso chiedere un prestito per comprare un'auto nuova? A noi. E per ristrutturare casa? Sempre a noi. Con Poste Italiane puoi accedere a un'ampia gamma di prestiti personali per realizzare i tuoi progetti. Perché non abbiamo mai smesso di dare risposte ai tuoi bisogni. Scopri le offerte su poste.it o all'ufficio postale. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prestiti BancoPosta sono prodotti di finanziamento collocati da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta ed erogati da Intesa San Paolo S.p.A. esclusivamente presso gli uffici postali abilitati. Compass Banca S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. in virtù del relativo accordo distributivo non esclusivo. Inclusivo sottoscritto fra le parti, senza costi aggiuntivi per il cliente. Prima di andare alle cronache da Covid, Paolo, allora 30 aprile del 1993, la Camera respinge 4 richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, il segretario del PSI esce dall'hotel Rafael, che di fatto era il luogo nel quale viveva e quasi una sede del Partito Socialista, ed è oggetto di lancio di monetine. È entrato una memoria collettiva per questo il Rafael, e adesso chiude, ci fa sapere Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Lo so, infatti, e dopo il caso di Botteghe Oscure, occupata, lo dico tra virgolette, dai leghisti, una mitica sede del PC che diventa una strada da oggi in poi, si deve avere le Botteghe Oscure per dei leghisti, chiude il Rafael, che è memoria per l'episodio che ricordavi tu, ma anche era un hotel dove andavano soprattutto i dirigenti della sinistra, perché era stata fondata da Spartaco Vannoni, che era un grande del Partito Comunista, che è uscito dopo i fatti in Ungheria, aveva portato con sé dei soldi, sembra, di finanziamenti dalla Polonia, ma non voglio sapere, e aveva fondato questo hotel magnifico in cui intellettuali ex comunisti e intellettuali socialisti. Craxi era molto legato ai profughi dal PC, a quelli che se ne erano usciti in dissenso con l'URSS, avevano messo, come dicevi tu, la loro sede, e la loro sede è stata tale fino a quell'anno terribile in cui lui fu sommerso di monetine. Sì. Il fatto che sia chiuso da marzo, impressione per marzo, tutti coloro che si occupano di politica, maggiore forse a quella di Bottegoscure, sì, perché quell'angoletto è un angoletto dove tutti i giornalisti di una certa età hanno stazionato per giorni e notte per trovare una dichiarazione. Chissà se riaprirà, chissà se riaprirà. Andrei, Paolo, dunque alle cronache da Covid, che si compongono di tanti elementi. Innanzitutto i dati sulle vittime: 35.000 i morti da Covid. Questi i dati tanti, hanno superato, hanno superato quota 35.000 in Italia. E poi tutta quest'idea di fare i tamponi a chi arriva dall'estero, no? Che troviamo sparsa sui quotidiani, sì, quotidiano nazionale, il Messaggero. Questa è una buona idea, ma c'è ancora confusione, ancora non si è ben trovato un orientamento che non sia quello di usare le mascherine, poi nelle scuole cosa si farà, insomma c'è stenta a esserci un protocollo comprensibile a tutti. In fondo siamo alla fine di luglio, verso la fine di luglio. Mi piacerebbe che per i primi di agosto ci fosse un progetto ordinato di come comportarci. Certo, queste cose vanno guidate giorno per giorno, però ci sono paesi che si stanno riprendendo lentamente e clamorosamente. Io l'ho letto su molti giornali, ma la pagina fatta meglio è quella 23 del Sole 24 Ore, un articolo di Rita Fatigusa. Il PIL cinese cresce del 3,2%, ben inteso, non sono i ritmi di crescita che aveva la Cina prima del Covid, però intanto cresce, i consumi restano deboli, borse asiatiche in forte perdita, nonostante il rimbalzo dell'economia, fanno fatica a ripartire anche gli investimenti, attesa per nuove stimoli. Comunque un segnale, sempre nella stessa pagina ci dice che Bolsonaro è stato il leader brasiliano, positivo anche al secondo tampone. Bolsonaro rischia perché continua ad avere il Covid. E in Perù, questo per dirti anche la velocità di reazione, dove i casi di contagio sono stati altissimi, il governo, il presidente ha sostituito metà governo, compreso il presidente del Consiglio, in un giorno solo. Ha messo economisti, cioè si è reso conto. Così si comportano a volte anche i paesi, si rendono conto che il governo precedente non era adatto, i casi crescono, ha preso e ha sostituito 11 ministri. 11 ministri, praticamente la metà del governo. Molto rapidamente, l'altro fronte che troviamo sui quotidiani, Paolo, è sicuramente quello dei migranti. Da una parte quelli che arrivano con il Covid, dall'altra quelli che sono già sul nostro territorio e dai quali si genera qualche focolaio, penso a Libero, che ci racconta dei 42 migranti positivi in un centro profughi di Jesolo, e dall'altra parte il rifinanziamento della missione in Libia che crea qualche problema politico soprattutto al PD. Vedo che la ministra Lamorgese si è data da fare perché la situazione sia meglio ridefinita in Libia, che questi campi di contenimento che ci sono in Libia, che erano diventati dei lager, anzi forse lo sono sempre stati. Però questo dei migranti resta un problema, perché anche se riuscissimo a ridefinire quella Libia e vatti a fidare della parola dei libici, poi quali libici, adesso prevale Serraj, ma insomma lo vedremo, però l'idea di rimandarli in Libia non è la migliore, e secondo me la ministra Lamorgese sarebbe meglio ad andare avanti a spiegarci, io lo dico, l'ho già detto una volta, come funziona quell'accordo che lei prese a Malta e che vantò per tutto l'autunno, cioè che i migranti che mettono piede in Italia vengono redistribuiti in altri paesi europei. Come sta funzionando? E sta funzionando? E sta funzionando soprattutto? Tu non essere malizioso, guarda, ma arrabbio. Okay. Magari funziona benissimo. Basta saperlo. Io ogni volta che mi parlerai di migranti chiederò chiederò alla ministra Lamorgese, ma li stiamo restituendo nella misura dell'80-90% come c'era stato detto oppure no? Non domanda... fare questo sorrisetto. Assolutamente, per carità. Ci sentiamo lunedì, Paolo. Grazie Paolo. Grazie. Mieli, GR24, a tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti. Oggi la prendiamo un po' più leggera, argomenti più ampi, parleremo della ripresa dell'università e ci occuperemo anche di come cambiano le nostre città con lo smart working. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.